Incontri di Gianfranco Fabi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, e ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Genova per noi, queste note di Paolo Conte introducono l'incontro di oggi con Claudio De Albertis. Tra un attimo vi spiego chi è Claudio De Albertis, ma facciamo spiegare a lui perché Genova. Perché io sono nato a Genova, pur vivendo da sempre a Milano, però il mio cuore è rimasto a questa fantastica città, una città un po' chiusa, però con questo grande mare. Una città con delle ricchezze culturali, monumentali, fantastiche, una città ancora tutta da scoprire. Quindi è rimasto un po' un segno genetico, e quindi Milano per lei è un po' la periferia di Genova. Beh, forse questo è un po' esagerato dirlo, anche perché poi la colonia dei genovesi qui a Milano è enorme, sempre più grande. Praticamente incontro più genovesi qui che a Genova, quasi quasi. Questo è un dato di fatto, però rimane sempre il fatto che quella è una città secondo me fantastica. E quindi è anche il mare di Milano, il porto di Milano, ma è qualcosa che ormai è assimilata. Poi magari riusciremo anche a collegarla un po' meglio con Milano. Beh, il giorno che sarà collegata dall'alta velocità e ci si arriva in tre quarti d'ora, sinceramente, perché non andare a stare là? Svegliarsi la mattina e vedere il mare, andare a correre, a me piace correre, andare a correre in Corso Italia fino a Bocca d'Asse o verso Nervi è un po' diverso che correre qui. Verso Naviglio. Ecco, Claudio De Albertis, presidente di Assimpredil, l'associazione delle imprese edili di Milano, Monza, provincia di Milano, Lodi, quindi una organizzazione importante nell'ambito dell'ANCE, di cui è stato, mi pare, anche vicepresidente. Sono stato presidente nazionale. Presidente nazionale negli anni scorsi, quindi impegnato sul fronte delle costruzioni, sul fronte della realtà, anche della realtà appunto edilizia, anche sul fronte culturale. Lei ha anche altri incarichi di carattere appunto sia associativo sia educativo. Sì, allora prima di tutto io faccio l'imprenditore edile, perché questa è la questione di famiglia. Credo che la nostra sia ormai una delle più vecchie aziende, anche perché molte delle vecchie disgraziatamente non ci sono più. Le imprese milanesi storiche, soprattutto le più grandi, sono morte durante post Tangentopoli, e quindi oggi la realtà è fatta di molte aziende molto più nuove. Noi siamo un'azienda degli inizi del Novecento e speriamo di rimanerci, anche perché poi c'era mio nonno, mio papà, io, adesso ci sono i miei figli, e quindi mi auguro che ci sia continuità da questo punto di vista. Poi io credo di averla presa come un hobby. Ho sempre fatto un lungo percorso nella vita associativa che mi ha portato prima a fare il presidente dell'associazione di Milano, quello che faccio ancora oggi, fino al nazionale, ritornare qui. Questo non è un bellissimo segno, forse, perché ci sarebbe bisogno di qualche novità, ma alla fine i miei colleghi hanno pensato di riportarmi qui in questo luogo. Parallelamente, per parecchi anni ho fatto anche un corso al Politecnico di economia e gestione delle imprese. Mi sembrava anche così un dovere, e questo un dato di fatto. Poi a un certo punto non ce l'ho più fatta, perché realmente era, certo, un impegno tra compiti, tesi e roba del genere, diventava una cosa encomiabile ma impegnativo, molto impegnativo, devo dire la verità. E adesso mi è rimasta questa passione. Anche io ho una grandissima passione per l'architettura, pur essendo ingegnere, non avendo fatto l'architetto, forse trasfusami nelle vene da mia moglie, che poi è morta 2 anni fa, che era un architetto, aveva una grande passione, per cui questo mi è rimasta, e quindi da qui anche l'impegno in alcuni istituti come l'Istituto Nazionale d'Architettura, l'INAR, fondata da Zevi, di cui io sono anche lì da tempo immemorabile il presidente della sezione, ecco, lombarda. A questo mi riferivo, in questo impegno appunto anche nell'architettura, che in fondo è il bello dell'ingegneria, l'ingegneria applicata anche tenendo conto di realtà che sono estetiche, che sono ambientali, che sono di compatibilità complessiva. Ecco, stiamo un po' sul tema dell'edilizia milanese. A Milano sembra che si costruisca molto, almeno così a occhio, guardando, girando per la città. È un'impressione reale, oppure in questa fase è solo il fatto che si costruisce in alcuni grandi centri come l'ex Fiera di Milano e così via? Questo certamente non è un momento favorevole. Bisogna tenere presente che le costruzioni, anche quelle civili, una casa così, ormai ci si mette 2 anni e mezzo, 3 anni a completarla, per cui molto spesso noi vediamo gru che nel tempo si mantengono. Ecco. Quindi e siamo un po' vittima anche noi di questi grandi interventi, Garibaldi Repubblica, City Life e quant'altro. No, i dati parlano di una pesante crisi del settore, crisi economica. A Milano sicuramente meno che dalle altre parti, e se solo andiamo in provincia di Milano la crisi è più sensibile, se poi andiamo nel resto d'Italia ancora di più. Milano è una sorta di piccola oasi felice, tant'è vero che non c'è stata una bolla immobiliare, il mercato ha tenuto, però comunque è una crisi che poi si ripercuote, è una crisi di numeri che si ripercuote sulle imprese che sono molto, molte e molto piccole. Ecco, questo è un problema. Io credo che sia arrivato il punto, ce lo siamo detti, io quando ero presidente nazionale, o adesso lo dico molto spesso, parlo di politica industriale del settore. Purtroppo il nostro è un settore che non ha un'azienda leader. Di solito sono le aziende leader, la Fiat per il settore metalmeccanico, che fanno le politiche industriali. Da noi sono tante piccole aziende. Non si è mai avuto il coraggio di fare una politica industriale tesa a creare aziende più forti, più agguerrite, più patrimonializzate, più organizzate. Ecco, eppure il settore dell'edilizia è un settore diciamo molto nazionale, in cui non c'è una presenza di aziende straniere, come invece c'è in altri settori, come può essere la distribuzione, quello alimentare, che è sugli scudi in questi giorni. E quindi ci sarebbero le condizioni anche per far crescere delle aziende interne, delle aziende nazionali, delle aziende forti. Guardi, il fatto che le aziende estere fortissime non vengano in Italia è dettato dal fatto che qui lavorare è complicatissimo. Noi viviamo in una giungla normativa. Io molte volte anche pubblicamente ho detto che ci vorrebbe una bella, dato che viviamo in uno stato di esondazione normativa, ci vorrebbe una bella moratoria. Per 2 anni non si fanno norme, non si fanno regolamenti, non si fa niente e ci si dedica veramente a sfoltire da questo punto di vista. Noi abbiamo lavorato accanto alla più grande azienda che ci sia oggi in Europa, che è Vinci francese, e loro vedevano queste difficoltà operative, non riescono a... Quanto alle aziende italiane, sono aziende molto familiari che si identificano con una persona fisica, per cui mettere insieme delle persone fisiche è molto difficile. Un conto è mettere insieme capitali e poi c'è un management. Le nostre aziende sono fatte degli imprenditori titolari d'azienda, poco management. Allora è molto difficile da questo punto di vista. Ecco, che ci sia una complessità normativa, amministrativa, burocratica, lo ha ammesso lo stesso Ministro dell'Economia, che è il primo responsabile in fondo della legislazione, quindi vuol dire che veramente si parla da tanto tempo di questa semplificazione, una semplificazione che però tarda ad arrivare. Come mai? Ci sono troppi interessi o c'è troppa disattenzione? Guardi, se devo essere sincero, io penso che ci siano molte connivenze anche sul nostro versante a far sì che questa complicazione rimane, perché c'è chi di questa complicazione poi ne trae vantaggio. Seconda questione, veramente è tale il livello ormai di farraginosità della situazione che è difficile venirne fuori. Io credo che c'è bisogno a questo punto, prendiamo per esempio una macchina amministrativa come quella del Comune di Milano, di una vera rivoluzione interna, operare con l'obiettivo della qualità dei processi. Certo. Che vuol dire però anche superare certi limiti di natura sindacale, vuol dire trovare nuovi sistemi per retribuire le persone, cioè è un processo completamente diverso. Il paradosso è che ci sono nell'amministrazione pubblica, in tutte, ci sono spesso delle grosse eccellenze. Anzi, se le debbo dire, queste eccellenze sono cresciute di più nel settore pubblico che nel settore privato. Poi però c'è un insieme invece di eccellenze magma. Non fanno sistema, ecco, il problema in fondo italiano non solo del settore edilizio ma di molti altri settori, in fondo dell'economia italiana. Incontri. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte, il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Con queste note di Paolo Conte, Genova per noi, riprendiamo il nostro incontro con Claudio De Albertis, presidente dell'Assimpredil di Milano, anche se abbiamo parlato di Genova, abbiamo cominciato da Genova perché Claudio De Albertis è originario di Genova e, da come ha detto nella prima parte del programma, è rimasta un po' di nostalgia per questa città. Ma parliamo di Milano, abbiamo visto le difficoltà dell'edilizia, adesso Milano ha gli occhi puntati sull'Expo 2015, cosa può significare? Cosa sta significando? Perché ormai i progetti dovrebbero essere definiti, anche se sappiamo che sono stati molti problemi di avvio. Cosa può significare per l'edilizia milanese l'Expo 2015? Prima di tutto l'Expo io l'ho sempre pensata e vissuta come una scintilla per trasformare veramente la città verso un appuntamento che si può definire al 2030. No? In questo momento c'è una grande competizione tra aree territoriali per posizionarsi. Milano ha la grande fortuna di essere collocata su dei grandi assi, la Torino-Lione, oggi in dubbio, la Rotterdam-Genova, per cui ha una posizione molto appetibile da questo punto di vista. Per cui questo poteva essere, come dire, la scintilla per un processo che secondo me si deve basare su due aspetti. Richiamare qui, ottenere qui, visto che le nostre università sono un'eccellenza, i giovani che sono la vera ricchezza, ma giovani che non hanno paura del cambiamento, che sono capaci di cambiare delle regole desuete per costruirne delle nuove, che non si affezionano alle polemiche. Questa è una città veramente molto conservatrice, dove la gente, indipendentemente dai problemi anagrafici, ha paura di qualsiasi cambiamento e misura le cose così nel quotidiano invece che guardare gli effetti nel coso. Per cui l'Expo, da questo punto di vista, una scintilla anche su un grande tema, secondo me, che è il tema e che riguarda anche il nostro settore, se non principalmente, che è il tema dell'ecosostenibilità. Io credo che vuol dire traguardare tutti i prodotti per il loro ciclo di vita e per quello che producono gli effetti nel ciclo di vita. Per cui voleva dire far diventare nel 2030 questa città la guida in questo continente su questo tema. L'Expo era questa grande occasione. Mi sembra che dall'altra parte sia poco capito che l'Expo alla fine è una grande fiera campionaria e si è voluta sostanzialmente affidare chissà quale ruolo. Certo. È la città e il territorio che poi attorno si legavano ad un progetto, ma alla fine è una fiera campionaria in cui sostanzialmente ogni paese arriva ed espone quello che vuole. Tutti gli Expo che ci sono stati avevano un tema, io ne ho visti parecchi, mi sembra che c'è stato solo un paese che arrivava e interpretava il tema nella sua giusta accezione, che era l'Inghilterra, tutti gli altri esponevano quello che volevano a partire dall'Italia. Allora, il tema è un tema delicato, quello scelto, è un tema su cui non so quanti verranno qui, spenderanno fior di milioni di euro per fare un padiglione, però ugualmente questo era un problema. È una sfida comunque anche questa. Dal punto di vista ci sono molti investimenti, molti sono già stati avviati nelle infrastrutture, c'è poi un sito da attrezzare che rappresenta per l'edilizia parecchi centinaia di milioni di euro. Io sono convinto che, come al solito, siccome questo paese è sempre così, alla fine, voglio dire, queste cose si faranno e sono convinto e sono certo che si faranno al meglio. Ho un pochino più di perplessità sul fatto che questa occasione venga colta da un grande territorio, certo, perché quando parlo di Milano parlo di una Milano che va da Novara a Piacenza, da Lecco a Pavia, una sì, realtà fatta da di 7 milioni di abitanti. Certo. Sì. Ecco, lei ha lanciato nei giorni scorsi una specie di allarme anche sul fatto dei rischi, delle implicazioni, del coinvolgimento anche di una certa forma di criminalità, di certe realtà mafiose all'interno appunto dei progetti per l'Expo. Cosa si sta facendo per controllare questa realtà? Guardi, il mio allarme era non solo legato all'Expo, era legato alla situazione economica, alle aziende e soprattutto quella finanziaria. Le aziende in questo momento avevano, negli 8 anni favorevoli che ci sono stati nel passato, accumulato risorse investite nelle aziende, gli imprenditori le avevano investite. Però in questi 2 o 3 anni di crisi se le sono consumate. Vengono al pettine adesso problemi grandi di carattere finanziario, ancora prima che economici, e lei sa bene che le aziende di solito falliscono su problemi di liquidità, non più ancora che su problemi economici. E la sirena di denaro facile è una sirena che, ci accorgiamo, comincia ad arrivare. Ecco. Per cui lì bisogna sicuramente fare qualche cosa. Allora, noi siamo convinti che lo debbano fare le forze di polizia, la magistratura, però dobbiamo dare il nostro contributo. Allora, il contributo che è non solo selezionare chi sta dentro nell'associazione, chi ci vuole arrivare in maniera seria e puntuale, ma dall'altra parte abbiamo cercato anche di creare una serie di ulteriori controlli nei cantieri sui mezzi che entrano, sulle persone che entrano. Abbiamo invitato le stazioni appaltanti ad essere molto esplicite, non solo nel momento in cui voglio individuare chi vince una gara, per cui il bando, non solo chi ha vinto, ma poi anche al termine della gara comunicare l'esito in termini economici, in termini di tempo. Cioè, più trasparenza c'è in questo mercato e forse si raggiungono gli obiettivi. Sì, anche perché non bisogna forse pensare solo alla grande mafia o alla grande criminalità, ma anche a tanti piccoli elementi che possono essere il lavoro nero, che possono essere l'evasione fiscale, che peraltro poi distorcono anche la concorrenza, oltre a essere degli elementi ovviamente da un punto di vista penale rilevanti. Quindi c'è un problema appunto di trasparenza complessiva. Il vostro impegno su questo fronte è molto forte. Assolutamente, per noi è un problema di sopravvivenza. Tenga presente un altro fattore: noi abbiamo un mercato fatto per l'80% di lavoro privato, per il 20% di lavoro pubblico. Ebbene, nei lavori pubblici c'è una sorta di selezione o di prequalifica, anche se sarebbe tutta da rivedere perché i parametri sono un po' vecchi, un po' stantii, le fotografie sempre vecchie. Nel lavoro privato, invece, nel mondo privato, io mi iscrivo alla Camera di Commercio e divento azienda edile portando una carta d'identità e un codice fiscale. Questo non è possibile. Adesso è in discussione in Parlamento una proposta di legge che tende a fare un minimo di qualifica, dare una patente alle aziende. I parametri, secondo me, sono ancora molto tenui, anche perché in un mondo fatto da più di 900.000 aziende non ci può essere, col codice Ateco costruzioni, evidentemente ci sono molte resistenze a una qualificazione seria. Però questa va fatta, se no è un mondo che poi non sopravvive. Alla fine, anche nel nostro sistema associativo, le mediazioni sono sempre verso il basso e alla fine ci stanno tutti male. Ecco, il sistema, appunto il sistema Italia, forse complessivamente, che ha qualche problema nel mettere appunto queste logiche di crescita. Anche sul fronte milanese, sul fronte delle infrastrutture, abbiamo visto come alcune occasioni, pensiamo alla Malpensa, sono state occasioni in gran parte perse. Come mai manca questa mentalità di fare sistema attorno alle grandi scelte del paese? Si ragiona troppo con un profilo di breve termine? Sì, questo è vero, è verissimo, si ragiona in un profilo di breve termine. Secondo me, se devo dirla molto chiaramente, io penso che questo paese non possa più sopportarsi però una gerarchia, cioè comunque dei livelli istituzionali, una frammentazione come sono quelli di adesso: regione, provincia, comune, consigli di decentramento, comunità montane. Cioè, io credo che questo non sia più possibile, sia uno degli elementi che determina, forse il primo. Io credo che debba essere flessibile, come dire, il panorama istituzionale. Ci sono delle realtà, in Umbria c'è una città regione sostanzialmente, ma qui da noi credo che di fatto dobbiamo ormai arrivare ad avere una regione e dei comuni, uno in particolare questo, che sia un comune di area vasta. Sul fronte diciamo proprio del territorio, lei quale vede come priorità per Milano e per la Lombardia? Io credo che la questione, cioè questa competitività di cui diceva, si sta nell'attrattività della città, ma sta prima di tutto in una maglia infrastrutturale molto più forte. Cioè il piano di governo del territorio testé varato, che dovrebbe essere pubblicato, prevede giustamente 9-10 linee di metropolitane interrate in superficie. l'obiettivo è quello che ciascun cittadino si trovi a 500 metri da una stazione del metro. Ecco, questa sarebbe la chiave di volta, perché in fondo la forza di Londra, Parigi, di queste città sta proprio nel fatto che le persone mobili si muovono rispetto alle cose immobili in assoluta libertà, e questo è uno dei principi della qualità della vita. C'è un problema, secondo in città, secondo me, di una, è un problema culturale ancor prima di spazi pubblici. I nostri spazi pubblici rispetto a queste grandi città fanno veramente schifo da questo punto di vista. Non c'è cultura, non c'è cultura della manutenzione, l'arredo urbano è indecente, o ci sono pali da tutte le parti, luci diverse una dall'altra, non c'è assolutamente niente. Sì, non c'è una logica di programmazione. Ecco, per concludere, stiamo avviandoci un po' alla conclusione, lei cosa consiglierebbe a un giovane che magari vuol fare l'imprenditore, di magari cercare nell'ambito edilizio o di rivolgersi ai nuovi settori, alle nuove frontiere che hanno tante possibilità ma anche tante incognite, come quelli appunto dell'informatica, dei social network? Io sinceramente guarderei molto al nostro mondo, perché il nostro mondo è un mondo vecchio. Le nostre aziende sono fatte di persone, non dobbiamo pensare che molti dei nostri imprenditori erano i cosiddetti capimastri che sono rimasti, per cui il nostro mondo ha bisogno di un nuovo management e quindi di professionalità, di competenze nuove. È un mondo che va cambiato dal basso radicalmente, per cui le opportunità secondo me in questo settore sono tantissime. Quindi bisogna comunque continuare a vivere in una casa, a vivere in un ambiente, a vivere in una città, in una realtà, cioè vivere è qualcosa che appunto fa parte della natura umana. Vivere in un ambiente bello è comunque qualcosa che aumenterà sempre la domanda anche di miglioramento della qualità della vita. Questo indiscutibilmente, anche noi facciamo degli indagini una volta all'anno con un grande istituto di ricerca proprio sulla domanda, per capire, per cercare di interpretarla al meglio. C'è ancora una forte domanda, per esempio, di abitazioni, solo probabilmente va reinterpretata, e anche le regole vanno superate. Faccia conto che le regole sono fatte per un modello abitativo che è quello degli anni 50, e anche i modelli costruttivi sono quelli degli anni 50. Forse tutto il nostro sistema dovrebbe ripensare a questi modelli. Quindi abbiamo bisogno di politici lungimiranti, di imprenditori che abbiano la capacità appunto di pensare alla grande e di avere anche il coraggio di cambiare un po' le cose. Io ringrazio Claudio De Albertis, presidente dei costruttori milanesi, che ci ha fatto compagnia questo pomeriggio, così come ringrazio Peter Bascapè in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.